Sei l'amore o Marilu, ascolta ancora la serenata del mio cuore, quando canto più di Verona e forse ridi di me, perché, perché ti vorrei dire che t'amo tanto da impazzire, e nel mio cuore c'è un dolce fremito d'amore. Vedo tu nel ciel brillar per te mille mille stelle, non son più belle di te. Anche stasera al chiar di luna voglio per te cantare, e se m'ascolti più per nessuna vorrà il mio cuor sognare. Tu che sei l'amore o Marilu, ascolta serenata del mio cuore, quando canto più del vero, e forse ridi di me, perché, perché ti vorrei dire che t'amo tanto da impazzire, e nel mio dolce fremito d'amore, vedo tu.